Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog, si chiama Guardie o Ladri e lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. E proprio da una lettera che ho ricevuto nel mio blog da una lettrice palermitana è nato l'interesse per me per questa trasmissione nel seguire il caso di Attilio Manca. Siamo alla terza puntata che oggi dedichiamo a questo caso. Attilio Manca era una promessa della chirurgia italiana, un urologo, trovato morto in circostanze assolutamente strane e anomale, definiamole, il 12 febbraio del 2004. Per farla breve, per sintetizzare le chiacchierate che abbiamo avuto in questi due giorni con il fratello di Attilio Manca e con l'avvocato della famiglia, la famiglia sospetta che Attilio Manca non si sia suicidato, così come sembrerebbe, con una dose letale di sedativi, alcol e droga, ma sia stato assassinato probabilmente perché era venuto a conoscenza di segreti o comunque di cose che non potevano essere rivelate, perché sarebbe stato lui ad operare nell'ottobre del 2003 in laparoscopia. Lui era uno dei pochi che all'epoca era in grado di farlo, tal Bernardo Provenzano. La famiglia si sta battendo affinché questa morte non passi come un suicidio, ma venga catalogata come omicidio. A seguire l'indagine, l'inchiesta, è la Procura della Repubblica di Viterbo, che per la terza volta sarebbe prossima, secondo quelle che sono le indiscrezioni, ad un'archiviazione, quindi archiviare il caso come suicidio. E oggi noi abbiamo chiamato due altri e alti interlocutori per parlare con noi di questo caso, che sono il professor Guido Travaini, che è professore di principi di diritto presso la Facoltà di Medicina all'Università di Milano. Buongiorno professor Travaini. Buongiorno. E l'avvocato Claudio Bossi, esperto di queste questioni ed esperto comunque di psicopatologia forense. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei e allievo del professor Travaini. Allora, ovviamente, ci dicevamo prima in trasmissione, non avendo lettura e contezza degli atti, il professor Travaini e l'avvocato Bossi non possono spingersi nel dire è così, non è così. Questo compete solo ed esclusivamente ad un'aula di tribunale. Però è interessante capire ciò che è avvenuto e capire a che cosa serve, ad esempio, un'autopsia. E perché lo chiedo al professor Travaini? Perché tra i punti dolenti lamentati dalla famiglia Manca c'è proprio un'autopsia che sarebbe stata fatta in fretta e in furia ed oltretutto in maniera scorretta, secondo il loro dire, dalla moglie del primario del reparto in cui il professor Manca era invece vice primario. Professor Travaini, a cosa serve un'autopsia? Allora, prima di tutto direi che l'autopsia è un atto di garanzia per tutti noi, cioè vale a dire che lo Stato si pone il problema di capire il perché una persona muore. E quindi dobbiamo distinguere a grandi linee due autopsie. Una si chiama un'autopsia giudiziaria e viene disposta allorquando alla base della morte c'è un'ipotesi di reato. Ed è quella che, diciamo, tutti noi vediamo ormai in televisione, nei vari telefilm, nelle varie cose che ci raccontano di reato. Certo. L'altra modalità autoptica è il riscontro diagnostico, che ha sempre il fine di capire il perché un soggetto è deceduto, ma la differenza tra le due è che nella autopsia giudiziaria c'è una ipotesi di reato ed è disciplinato dall'articolo 116 delle disposizioni di attuazione del nostro codice di procedura penale. Benissimo. Ecco, se mi permette, in modo tale da chiarire un po' che cosa accade nella realtà, assolutamente, laddove si trova un soggetto deceduto e il pubblico ministero, che dobbiamo ricordare è colui che dirige le indagini, ravvede l'ipotesi di un possibile reato, quindi siamo ancora veramente nell'ipotesi, nel vero senso della parola, deve accertare un dato, cioè deve capire, ed è la ragione per cui chiede che venga svolta una consulenza autoptica, deve capire due aspetti. Il primo, perché è morto, e il secondo aspetto, se dal punto di vista accusatorio è ancora più importante, se qualcuno ha aiutato, mi passi l'espressione quasi ironica, il processo della perdita delle funzioni, certo, vitali. Esattamente, di morte. Ecco, io volevo chiedere all'avvocato Bossi se dal punto di vista delle procedure, delle regole, tutto è stato a suo giudizio rispettato, o quali sono, meglio ancora, generalmente le procedure da seguire nel caso di un'autopsia. Leggo ad esempio che, e questo è un dato di fatto, quindi su questo dato di fatto potremmo ragionare se lei è d'accordo, che come dicevo prima l'autopsia è stata condotta ovviamente da un medico legale. Il giorno dopo che il medico legale, come probabilmente tutte le sere, si è trovata a casa con il marito, marito il quale è primario dell'ospedale in cui è morto Attilio Manca. E il giorno prima il professor Rizzotto era stato ascoltato dalla polizia. Quindi la situazione sarebbe questa: la moglie del primario il giorno prima, audito, se vogliamo così dire, dalla polizia giudiziaria come testimone, l'indomani compie una autopsia sulla quale poi il GIP chiederà anche un'integrazione. Ecco, ci sono, come dire, incongruenze e contrasti, o la procedura a suo giudizio è legittima e ben consumata? Ma intanto bisognerebbe trovare quali sono le norme che regolano e disciplinano il caso, e sono le norme che troviamo nel codice di procedura penale dal 220 al 228, e sono la normativa che riguarda la nomina del consulente, che fa poi riferimento, rispetto a quanto da lei in qualche modo indicato, agli articoli 36 e 37 che parlano sempre del codice di procedura penale, che parlano della impossibilità di svolgere l'ufficio per cause di incompatibilità. Ecco, giusto, fa bene di introdurre questo concetto. A suo giudizio siamo nel campo della incompatibilità o no? No, io do questa risposta e come vede lo do senza pensarci molto, certo, perché sono ipotesi assolutamente normativamente previste. L'articolo 222 per esempio dice che non si può fare il perito e quindi il consulente, perché l'articolo 225 sempre del codice di rito dice che le norme che si applicano ai periti si applicano anche ai consulenti tecnici, fuorché quella relativa all'aver svolto la stessa funzione, lo stesso procedimento, perché è ovvio che il consulente di parte svolgerà la funzione di consulente in quel procedimento in più occasioni. E sostanzialmente non possono fare i periti i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, chi abbia un'infermità di mente sostanzialmente, chi è sottoposto a una misura di sicurezza personale o di prevenzione, chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o è chiamato a prestare l'ufficio di testimone o interprete. Quindi, per tradurlo, come dire, in maniera volgare, semplice per i nostri radioascoltatori, al massimo si può parlare di una curiosità dal punto di vista procedurale, di una stranezza se vogliamo vederla invece da altre parti, ma la dottoressa Ranelletta, che è appunto il medico legale che ha condotto l'autopsia, moglie del primario di cui Attilio Manca era il vice, ha come dire seguito le regole, non c'è nulla né di incompatibile né di illegale, ancor peggio, nella decisione di affidare a questa persona l'autopsia sul cadavere di Attilio Manca, giusto? Qua è così, rispetto a quanto è a mia conoscenza, ed è una conoscenza come il professor Travaini sottolineava all'inizio e lei ribadiva, è dovuta alle poche conoscenze che abbiamo sulle carte processuali, non esistono ipotesi di incompatibilità del medico legale nominato rispetto all'esecuzione. Ecco, per quello che può essere la conoscenza degli atti e delle carte lette di parte, ad esempio sul sito internet della famiglia Manca, ci sono a vostro giudizio delle stranezze su cui si può parlare ancora, oppure, come dire, senza la lettura degli atti nulla è più possibile dire allo Stato? Ascolti, io le dico l'avvocato che ha il vizio e a volte l'obbligo della curiosità per cercare di ricostruire le difese dei propri assistiti, che mi ha colpito la circostanza indicata nel sito dell'essere il dottore assolutamente sinistrorso, cioè non usava per compiere alcun atto la destra, e è stato trovato con i segni dell'iniezione fatte sul braccio sinistro. È una circostanza assolutamente particolare, perché si sarebbe fatto le iniezioni letali utilizzando la mano sinistra nello stesso braccio. Mi fa piacere che a segnalarlo sia lei, perché posso garantire che mai abbiamo, ovviamente, al di là dell'indicazione del sito, concordato alcunché con i nostri ospiti, e così mi comporto sempre. Professor Travaini. Io guardi, vorrei semplicemente aggiungere una cosa. Prego. Abbiamo in questo momento storico, direi così, una fede forse eccessiva nella scientificità, in sede anche processuale. Vale a dire che abbiamo a volte la sensazione che un'autopsia ci possa dire tutto. Io credo che focalizzarci solo su quell'atto, che ricordo è un atto non ripetibile, per la semplice ragione che un'autopsia mal fatta è un'autopsia che crea un grave danno all'indagine. Noi in questo caso non sappiamo assolutamente se è stata ben fatta o mal fatta. Posso aggiungere una cosa, che chi l'ha fatta è uno specialista in medicina legale, quindi hanno utilizzato il medico più adatto che poteva essere utilizzato. Benissimo. Io ringrazio i nostri ospiti, il professor Travaini e l'avvocato Claudio Bossi, per i loro interventi. Ringrazio in regia Pietro Lacorte, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.